Birgitta. In soffitta c'era ancora la casa delle bambole con cui giocava da bambina e che avrebbe voluto lasciare alla figlia che non aveva mai avuto. Quando i gemelli erano piccoli, l'aveva comunque portata giù perché ci giocassero, ma trovandola al rientro dal lavoro, Jacob era andato su tutte le furie. «Vuoi farli diventare due finocchi?» aveva gridato scaraventando la terra. Birgitta si era affrettata a riportarla in soffitta, prima che il marito ne facesse legna da ardere. Il giorno dopo, i ragazzi avevano ricevuto ciascuno la sua bella mazza da hockey dal papà. Birgitta passò una mano sul tetto della casetta. Quando aveva capito che non avrebbe mai avuto una figlia, aveva deciso di regalarla alle nipotine, ma ormai sembrava improbabile che avrebbe fatto in tempo a diventare nonna. Peccato. Era convinta che sarebbe stata una brava nonna, o almeno migliore di quanto fosse stata come mamma. Dopo un'ultima carezza alla casetta, Birgitta scese la scala con prudenza. Era pur sempre una madre, la sua responsabilità verso i gemelli non era ancora terminata. Era compito suo assicurarsi che avessero una vita confortevole anche quando lei non ci sarebbe stata più. Senza il contributo economico che Jacob passava loro ogni mese, non ce l'avrebbero mai fatta ad andare avanti. E anche quello stava diventando un problema. Lo studio di Jacob, malgrado l'apparente solidità e rispettabilità, navigava in cattive acque. Birgitta sapeva che aveva preso in prestito soldi dai clienti per investirli in vari progetti. Progetti che non avevano mai dato gli utili sperati. Era solo una questione di tempo prima che la faccenda venisse a galla, e a quel punto Jacob se la sarebbe vista brutta, forse sarebbe addirittura finito in prigione. Birgitta avrebbe potuto accettare di trasferirsi in una casa più piccola, tagliare le spese e passare un paio di biglietti da 1000 ai ragazzi ogni mese. Ma se lei fosse morta e Jacob finito in prigione? Poveri ragazzi. La soluzione avrebbe potuto essere trasferire la proprietà della casa e delle macchine a Birgitta o ai ragazzi, in modo da metterli al riparo da eventuali confische. Ma Jacob si era rifiutato. Adesso toccava a lei sistemare le cose, e in fretta. Raggiunse la scuola in autobus, entrò in biblioteca e accese uno dei computer. Poi fece il login come ospite e andò su Google.